L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi vede, ascolti, lei non si rende conto, ma è diventato insieme a Gilletti, lei sul piano radiofonico, lui su quello televisivo, l'emblema del giornalista oclocratico. E comportatevi bene. Allora, vedi Parenzo, domani si svolgerà a Roma una manifestazione. Cominciamo subito col dire intanto che abbiamo concordato 1 minuto e 44 secondi per mandarvi a fare in culo. Domani a Roma si svolge. Ci saranno dei rivoluzionari, sì, che fermeranno quel fascista di Salvini, che lei lo voglia o no, con l'aiuto di Squinzi o senza. Lo abbiamo concordato 1 minuto e 44 secondi. Ah, allora va anche lei Capanna domani contro Salvini a manifestare contro Salvini. Certamente, dai Katanga fuori la spranga, pronti a cacciare a calci nel culo, detto con il massimo rispetto, quei signori della Lega che fanno la marcia su Roma. Dicevo che domani... E non sarà né lei né Gilletti a fermarci. Ma perché con questa ancora trasmissione con oclocratica, vergognosa e schifosa di merda, pagata con i soldi degli italiani. Detto no, sempre però, con rispetto. Ma veramente non è E abbiamo concordato 1 minuto e 47, in cui io posso spiegare capito. Perché la Lega nel dettaglio, dal nord al sud, sta inquinando questo paese. E lo dobbiamo Silenzio, dire. Senza interruzioni. Senza interruzioni, appunto. Vabbè ragazzi, allora domani si svolge una manifestazione promossa da un partito politico riconosciuto a livello nazionale, un partito politico che non è fuori legge, si chiama Lega Nord, il quale manifesterà a Roma insieme a Casa Pound, altra organizzazione di cui probabilmente molti di voi o anche molti di noi non condividono gli ideali, eccetera, le posizioni, ma che è democratica. Cioè, vai avanti. Non è stata sciolta dal ministro di... Comunque, no. Domani ci sarà una manifestazione a Roma, annunciata, una manifestazione contro Renzi. Cosa succede? Siccome è una manifestazione della Lega con la partecipazione di Casa Pound, i cosiddetti democratici, i cosiddetti tolleranti, coloro i quali manifestano le loro idee di libertà e democrazia in ogni dove, hanno promosso una contromanifestazione, perché di solito succede questo. Legittimo. Quando manifesta, sì, è tutto legittimo. Quando manifesta un partito politico, un movimento vicino alla sinistra, non c'è qualcuno che va lì a rompere i coglioni. Quando invece succede che a scendere in piazza è la Lega, sì, e qualche movimento di destra, c'è la contromanifestazione per fermare i fascisti. Io vi dico subito che secondo me i fascisti si trovano esattamente dall'altra parte. I veri fascisti si trovano tra quelli che, per esempio, stamattina hanno occupato una chiesa. Sapete, a me delle chiese non me ne fotte nulla. No, però io difendo sti ragazzi perché hanno occupato. Ma scusa, ma che sì, perché hanno occupato? Però ma lo che hanno c'entra fatto una con chiesa? Le modalità gandiane, non violente, di sedersi. Io vi, non violente. Vedi, ormai c'è anche Capanna dentro proprio. Che hanno occupato questa chiesa. E vedere, no, però seriamente, questa è stata una protesta contestabile, ma non violenta. Non si occupano le chiese. L'ho sentita, non violenta, seduti per terra, trascinati fuori a forza. Ma che c'entrano le chiese con Salvini? Con la manifestazione di Salvini, spiegamelo. Trovami un nesso. Ma questo è chiaro. Ma trovami un nesso. Questo è chiaro. Perdi tempo. Poi questi qua, ma che cazzo fanno nella vita? Perché vai a occupare una chiesa? Perché? Ma che c'entra il movimento della casa con Salvini? Ma ti rendi conto che è una follia? Sì, forse con Salvini non c'entra molto. È tutta una follia. Però sono sfaccendati. Perdi tempo. Ma hai gente senza casa, come sfaccendati? Ma c'è senza casa, ma dai. Se non hai la casa non hai il tempo di andare a manifestare contro Salvini. Se non hai la casa non ti reggi in piedi, innanzitutto. Dunque non hai il tempo di andare a manifestare contro Salvini. Ma no, è vero, è vero. Se ci pensi bene è vero. Se ci pensi bene è vero. Comunque sentiamo qualche voce di questi personaggi simpaticissimi. No, ma poi torniamo un attimo, perché con Gilletti un minuto e 44 secondi. Io le do tutto il tempo che lei vuole. E allora andate a fare il culo come concordato. No, veramente non abbiamo concordato. Come abbiamo concordato con questa radio, che mi pare è della Confindustria. E non avete mai parlato dei disastri fatti dalle imprese, dai padroni italiani in questo paese. Abbiamo concordato che si poteva dire. Se no vi mando a fare il culo in un minuto, 44 secondi. A lei e a quel coglione di Gilletti. Ma perché poi con due L? Lei ce l'ha spiegato l'altro giorno. L'ho nobilito, Gilletti. Allora, andiamo a sentire qualche voce di questi disgraziati. Dai, sono dei disgraziati, sai. No, ma non puoi. Come si dice puoi. Da queste parti, scappati di casa. No, sai, no. Ma sì, ma lo dico apertamente, perché lo penso alla fine. Se vai a occupare una chiesa perché domani c'è la manifestazione su Salvini, di Salvini a Roma, sei un coglione, sei un coglione. Ma perché uno non lo deve dire chiaramente? Lo pensi anche tu in fondo? No, io non lo, sì, lo direi, pensi. Sì. Vabbè. No, non lo penso per niente. Sentiamo questa voce. Niente, noi manifestiamo perché non vogliamo Salvini qua domani, ma se facciamo parte del gruppo per abitare, per avere una casa. Abbiamo occupato simbolicamente la chiesa per far sentire i nostri diritti, ma come al solito sono arrivati con la forza e hanno calpestato una signora che è andata all'ospedale. Bah, io divento pazzo. Noi siamo qui perché c'è la manifestazione di Salvini, vabbè, è il giorno prima, tra l'altro, siamo del comitato abitare Fracazzo e da Velletri. No, vabbè, che cosa c'entra il comitato per la casa con la manifestazione? Non vogliamo Salvini, ma che vuol dire? Poi dici sono arrivati con la forza. Beh, amico mio, hai occupato una chiesa. Beh, dicono vogliamo una chiesa, vogliamo la casa, non vogliamo Salvini, ha una sua logica, però. Ma non è possibile, è una roba incredibile. Ancora. Perché la polizia fa queste cose, non è che vanno lì a Piazza di Spagna a bloccare gli olandesi che stanno a rompere la barcaccia, no? Devono rompere a noi qui. Dentro delle chiese non potrebbero manco entrare, aggressivamente che sono entrati. E non si fa così. Quest'altra campionessa del mondo, quest'altro fenomeno, dice non si fa così. Cioè tu entri dentro una chiesa, la occupi e la polizia non può nemmeno sgomberare. No, ti deve lasciare lì sbivacca. A me delle chiese non me ne frega nulla, sono totalmente ateo. Totalmente ateo, probabilmente come la persona che fra poco avremo i nostri microfoni. Però amico mio, occupi, che è valdese, non però. Ti puoi stupire. È valdese, è vero. Non ti puoi stupire del fatto che arriva la polizia e ti porta fuori dalla chiesa, amico mio. Sì, ma non c'è stata nessuna violenza, una protesta gandiana, seduti. Ma che gandiana? Ma gandiana, senza violenza. Senti ancora, ti prego. Siamo usciti noi perché, cioè, a me manganellate non me le dai, insomma, è normale. E purtroppo questo è lo stato. Comunque contro Salvini, contro Renzi, contro il governo, contro Casa Pound, contro tutti. Beh, questo è curioso, poi c'è la manifestazione domani di Salvini contro Renzi e questo signore abitare. Beh, vabbè. Noi siamo contro tutto e vai a occupare la chiesa. Ma è incredibile, dai. È incredibile. Oh, poi c'è un tizio che si chiama Elio Germano. Signor Elio Germano. Un grande attore, Elio Germano. Ha interpretato Leopardi. È un attore. No, è un bravissimo attore italiano. Ha interpretato Leopardi in modo magistrale. In un film molto bello. Il quale fatto fa uno Signor spot circondato. Ma l'hai visto il film almeno, Il Giovane Favoloso? Sì, ma non... Di una poesia. Ma adesso questo non c'entra, però. Questo scusa. Leopardi quasi pasoliniano. Ma cosa c'entra questo? Scusa. No, era così. Questo Elio Germano, attore, il quale fa uno spot di 4 minuti per questa manifestazione mai con Salvini. È legittimo. lei questo. Insieme circondato utilizzazione di bambini rom che erano lì comparse che non erano a conoscenza di nulla, non sapevano nulla di quello che stava leggendo, perché leggeva passi dell'immigrazione USA sugli americana, no, degli italiani eccetera, e lo spot si conclude in questo modo molto, come dire, democratico, molto tollerante. Uomo di sinistra, signor Germano Salvini, tornate a casa che tutte ce volevo. Sì. E la clac rom dietro che applaude, la clac rom. Vabbè. Ci sarebbero tante altre cose, però andiamo con Paolo Ferrero, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, che domani credo sarà anche lui a Roma a manifestare contro Salvini, se non sbaglio. Ferrero, buonasera. Salve, buonasera. Come certo ci sarò. Ha sentito che bella filippica che ho fatto, eh? Che bella, sì, filippica. Sì, sì, scaldato. Mi sono scaldato moltissimo. Filippica reazionaria, tipica. Ma reazionaria, noi esageriamo, reazionaria. Lo dici tu e il tuo amico Capanna, reazionaria, dai, su. Allora, io voglio capire una cosa, Ferrero, ma innanzitutto cosa c'entra l'occupazione della Chiesa, sì, con... Me lo può spiegare lei, no? Lei che conosce queste dinamiche di piazza meglio di me, sicuramente, che sono un po' allergico alla piazza e alle manifestazioni, come lei potrà immaginare. Voglio capire cosa c'entra occupare una chiesa. Cioè, secondo lei è legittimo occupare una chiesa perché domani c'è la manifestazione di Salvini? Ma intanto mi sembra che è stato fatto un gesto dimostrativo. Dimostrativo, sì. Assolutamente dimostrativo, è andata, sì, tutto, sì, pacificamente, quindi che cosa si fa? Si fa per far parlare un po'. Le faccio un esempio. La settimana scorsa c'è stata a Torino una manifestazione contro la TAV, sì, in cui c'erano più di 10.000 persone. Il fatto che non sia finita ammazzate con la polizia ha fatto sì che non c'era nemmeno la notizia sui giornali da nessuna parte. Vabbè, questo che vuol dire? Cui bisogna inventarsi delle forme per far parlare ho capito. Anche di chi protesta, perché altrimenti parlano solo di Salvini che sta a colazione, pranzo e cena facendo concorrenza a Renzi in tutte le televisioni. Tra un po' ci obbligheranno a mettere la televisione in bagno per sentire Renzi e Salvini anche quando siamo lì, e quindi la gente, vabbè, non ho capito, la gente diversa deve far parlare di sé nei modi in cui fa, e questa azione, cioè, secondo lei è normale occupare una chiesa? È una cosa, non è mica morto nessuno, e poi il Papa sarà contento che qualcuno va in chiesa anche il sabato pomeriggio, insomma. Ah, lei pensa che il Papa di fronte alle proteste sociali, di fronte alle proteste, il Papa sarà d'accordo, sappia accogliere il fatto che il Movimento per la Casa giustamente dice che c'è bisogno di casa. Ma che c'entra il Movimento per la Casa su Salvini? No, ma lei riesce ad esempio, moltissimo. Movimento della Casa a Roma c'ha sia cittadini italiani che cittadini immigrati, che sono i primi che per una casa, e quindi giustamente è contro il razzismo ed è contro l'idea che mentre qualcuno si pappa i miliardi, gli amici dei vari sindaci delle ultime giunte, dall'altra ci sono i poveracci che finiscono in mezzo a una strada. Allora, per cui dice, siccome Salvini è contro gli immigrati, è razzista, eccetera, gli immigrati che vanno a occupare una chiesa perché vogliono dimostrare che le case, eccetera, eccetera, qualche connessione c'è, vabbè. Beh, certo che c'è, perché noi banalmente diciamo una cosa, che i soldi vanno presi dalle tasche dei ricchi, non far fare la guerra tra i poveri. Abbiamo già dato. Salvini propone la guerra tra i poveri. Lei si considera tra i ricchi? Io mi considero tra i benestanti, sì. Tra i benestanti. Quanto guadagna lei? Scusi, Ferrero, quanto guadagna lei? Io diciamo formalmente all'anno. Sì, netti, formalmente siamo sui 23-24 mila netti. 23-24 mila. Sostanzialmente per adesso sono sui 6-7 mila, perché la Rifondazione non mi sta pagando e quindi ho fisicamente. Perché Rifondazione non le sta? Perché Rifondazione non la paga? Non abbiamo soldi, e quindi si va avanti con i contributi dei compagni e delle compagne, che però essendo anche loro non molto ricchi e tanti disoccupati avanti. Ma come fa a campare con 6-7 mila euro l'anno, scusi, per curiosità, con 20 mila? No, le ho detto, teoricamente stiamo a 20 mila netti, cioè siamo... spero che mi entrino, adesso ho il conto in rosso di qualche migliaio di euro, diciamo. Conto in rosso di qualche migliaia di euro, vabbè, diciamo, i soldi che mi entrano fisicamente sono quelli ma che il Papa, lei lo... in regione. Sì, certo, il Papa lei lo considera l'ultimo comunista? No, il Papa è un cristiano vero. Ma è comunista, secondo lei? No, penso che un cristiano vero, in quanto tale, guarda all'umanità, e in questo me lo trovo molto vicino. Cioè, è più vicino a voi che a Salvini, secondo lei? Sì, perché Salvini è un vero bestemmiatore. È interessante, adesso ricominciamo da qua. Salvini, un vero bestemmiatore? Io mica so so comunista così sa, so comunista così. Looking for adventure. Allora, abbiamo con noi Paolo Ferrero, segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, che domani manifesterà contro Salvini a Roma. Io però, Ferrero, prima di farle spiegare perché considera... Questo però è anche bello che ci siano che ci sia una pluralità nel paese, le piazze. Io dico è che una quelli cosa che protestano contro Salvini sono, io dico forte, Ferrero, sai, io parlo pane al pane, dico molto chiaramente che quelli che protestano domani contro Salvini sono i veri fascisti. Ma cioè, perché anzi? Considero questa protesta una forma di fascismo. Ma perché? Perché sì, perché è chiaro che voi non volete, pensate che Salvini, che è il capo di un partito riconosciuto, che si presenta in Parlamento, che certamente allora lei deve arrivare alla conseguenza, avendo dato a Salvini del bestemmiatore, adesso si spiegherà, del razzista e forse pure del fascista, o sbaglio, lei deve dire che la Lega dovrebbe andare fuori legge, questa dovrebbe essere la conclusione, o no? Aspetti, allora mettiamola in fila, bestemmiatore, perché... la Lega nei mesi scorsi ha fatto un gran casino perché in una scuola non facevano il presepe, lo toglievano avanti dicendosi tutelava i valori cattolici, cristiani, quant'altro. Sì, allora... Poi nello stesso tempo Salvini dice che quelli che arrivano coi balconi li si possono anche lasciare in mezzo al mare ad affondare, no? Perché intanto è certo che dice che non bisogna riceverli, allora, riceverli. No, e che quindi vanno lasciati in mezzo al mare, quindi che si affondano, pazienza, no? Allora io penso che questa roba qua sia palesemente il contrario del cristianesimo, no? Gesù Cristo diceva amatevi gli uni gli altri, avanti. Invece considerare sostanzialmente quelli che scappano dalle guerre come delle bestie che si possono ammazzare, anzi sugli animali. Ho capito, questo è il bestemmiatore, questo è il bestemmiatore. Roba qua è come i nazisti che ci avevano scritto sul cinturone dire con noi, non ci stiamo, diciamo chi fa i campi di concentramento non può dire. Ma su, lei sta paragonando Salvini a un capo nazista. E chi dice che i barconi possono stare in mezzo al Mediterraneo, chi se ne fotte, se affondano, mi dispiace, stiamo sulla stessa linea d'onda. Benissimo. In più, allora... quindi razzismo brutale. Razzismo. In più è ovvio che se fascista pure. Che si è legato a Casa Pound, non lo dico mica io che sono fascista, lo dicono loro. Quello lo dicono, quindi... è vero. Sì, anche allora, se dicono fascisti del terzo millennio, beh, dicono. Anch'io sono un comunista del terzo millennio. Per me, per esempio, comunismo e fascismo pari sono, Ferrero. Infatti, ho sempre pensato che lui non capisse la sostanza della differenza tra chi ha fatto 7 milioni di morti nei campi di concentramento e chi ha sconfitto il nazismo. Il comunismo, qualche morto sulla coscienza, il partito comunista. Cioè, i comunisti non hanno ammazzato nessuno, secondo lei, nella storia? No, i comunisti ne hanno ammazzati come ne hanno ammazzati i liberali e qualcun altro. Penso che tutti hanno ammazzato. Nello specifico, forse l'olocausto è una cosa un po' particolare. Stalin era uguale a Hitler, su, diciamo la verità. Ecco, dai. Io penso che questo è il revisionismo storico, perché Hitler ha provato a sterminare con delle differenze, perché quello no, invece sterminava tutti. No, delle differenze. Vabbè, ma comunque non addentriamoci qui. Ha dato una mano con gli americani. Va bene, Ferrero, d'accordo. Allora, fascista, in Italia i comunisti hanno costruito la democrazia. Vabbè, fascisti, fascista, abbiamo detto perché. Bestemmiatore, abbiamo detto per te, razzista, dunque la Lega, conseguenza, la Lega deve essere domani decretata fuori legge, secondo lei? Allora, purtroppo la cosa è un po' più complicata, che sia complicata non c'è dubbio, perché manco Casa Pound. In Italia c'è stato il Movimento Sociale Italiano che si dichiarava tranquillamente in quella scena. No, ma adesso lasci perdere, secondo lei, io voglio sapere, secondo Ferrero, se lei fosse, come dire, al governo, promuoverebbe un'azione per mettere fuori legge la Lega? Questo voglio capire. Allora, esiste la Costituzione italiana che permette alla Lega di esistere e quindi la Lega esiste, nessuno dice purtroppo che dice lei. Non deve esistere. Io dico per la Lega che esiste, invece per Casa Pound altre robe io penso che andrebbe chiusa. Cioè Casa Pound andrebbe chiusa domani mattina? Io penso di sì. Alla Lega invece no, lei dà del fascista, del razzista. Mi faccio solo chiedere una cosa, però sulla manifestazione che lei dice chi va lì in fascista, la manifestazione è una manifestazione di protesta contro questi fascisti e questi razzisti che usano le paure della gente per cercare di dividere ulteriormente il popolo e avanti. E la ma bisognerebbe impedirla questa manifestazione, cioè secondo lei è una manifestazione... No, ma questa è interessante perché... No. È una manifestazione contro... una contromanifestazione. Ma questo lo so. Nessuno che ha chiesto al questore di impedire la manifestazione della Lega. Ma se Salvini, mettiamo che Salvini dovesse arrivare al governo, sarebbe un pericolo per la Costituzione italiana, per l'Italia? Lei sarebbe da prendere il fucile e andare in montagna? Che? No, già Renzi è un pericolo per la Costituzione, da questo punto di vista. Vabbè, sono in buona compagnia. Per lei, no, molti per sono. Me Renzi è l'altra faccia della medaglia di Salvini. Addirittura. Vorrebbero modificare la Costituzione e tutto il resto, entrambi sono neoliberisti, cioè su queste politiche di mangio della concorrenza. Magari lo fossero. Uno è nazionalista e c'ha il programma di Mussolini, autarchia più legge sulla razza. Chi è il programma di Mussolini? Vediamo se indovini. Salvini. Autarchia più legge della razza, bravo. Salvini ha il programma di Mussolini. Autarchia più legge della razza, sembra Mussolini degli anni 30, o mi sbaglio? Ma dai, su, no? Ma non si può. L'euro e sì, beh, sicuramente ha. Autarchia è legge della razza. È in buona sicuramente. Ma allora Ferrero, arrivi alla conclusione. Ma dal punto di vista della politica monetaria, propone una cosa la Costituzione, dice lega fuori legge domani mattina. Se lei dice Mussolini, non lo dice perché non ha coraggio di dirlo. Ma che cazzo di coraggio? Che cosa ci vuole a dirlo? Io le ho detto che a mio parere Casa Pound va chiusa. Quello è facile dirlo. Comportamenti facile, non so se è facile o difficile. Penso che va chiusa, e invece la Lega, che è un partito, va contestata per le sue posizioni fascistoide e razziste. Domani a Roma c'è una roba che, essendo ma perché non succede mai il contrario, che quando manifestate voi gli altri stanno a casa, guardano eccetera? Perché la contromanifestazione non c'entra nulla, è una cosa di intolleranza la contromanifestazione. Mi è successo varie volte di andare in giro e di trovarmi manifestazione contro. Non è che non succede, ma detto questo, la manifestazione di domani, che avviene in un luogo diverso da quella della Lega, dice semplicemente che un po' di gente, o per motivi politici o perché in questi anni non sta con niente casini domani, però, Lega, come romani. Vabbè, niente casini, certo che dicono, giustamente che Salvini se ne può tornare a casa. Vabbè. Penso facciamo bene. Senta, comunque io le volevo avvertire che fra poco il comunismo non ci sarà più nemmeno a Cuba, tanto per capirci. Dunque, quando Marx ha scritto il manifesto del Partito Comunista, il comunismo non c'era da nessuna parte. E poi invece su Cuba le pregherei di informarsi meglio, perché secondo me il fatto che Cuba abbia vinto una battaglia, cioè che gli Stati Uniti, cioè il comunismo sopravviverà. Non solo, ce n'è sempre più bisogno, perché qua sempre più bisogno tutti di comunismo. Ferrero, devo chiudere la Confindustria. Ciao. Ciao. Silenzio, senza interruzioni. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non vi abbandonerò mai. Ma che fine ha fatto il direttorissimo? Che fine ha fatto il direttore Fede? Ma non si sono perse le tracce, mi pare, non lo so. No, ieri tuonava contro il suo ex avvocato che... No, un momento. No, ma Capana, ma perché un sempre minuto Capana? E 40 lei, secondi per che dire un figlio che diretto, lei che cosa? E Gilletti ha occupato la trasmissione come negli anni 60. Bah, l'occupazione quando della Zanzara. Quando mi girano i coglioni, occupo tutto e mando a fare il culo in 40 secondi. No, stavo pensando... Abbiamo concordato con questa emittente radiofonica, in particolare con signor Roberto Napoletano. No, ma un minuto e 40 secondi nel quale io posso dire esattamente come stanno le cose. Quando non va una cosa in questo paese la si occupa, ci si occupa ma dei non diritti. È vero. Un minuto e 40 secondi abbiamo concordato, d'accordo? Però scusi un attimo, io voglio capire. Non trova anche lei, caro lei Capanna? Lei è l'oclocrate. Sono io l'oclocrate. Sì. Non pensa che sia assurdo il fatto che il signor Ferrero esalti il Papa? Ferrero ha inventato la Nutella, quindi la Nutella è una cosa di sinistra. Abbiamo un minuto e 40 secondi per poter parlare. Però mi lasci parlare anche me, signor Ferrero. Signor Capanna, allora la cosa incredibile è che Ferrero dice di essere vicino alle posizioni del Papa, di essere contro Salvini, addirittura più vicino ai comunisti che a Salvini il Papa, dice anche di essere, come dire, molto vicino a questa posizione di Chiesa Cattolica, e poi occupano le chiese. Cioè, beh, è una cosa incredibile. Mi sembra legittimo. Ma cosa legittimo? Abbiamo parlato, Capanna, anche con il cosa? Papa in un minuto e 40 secondi, ma per no, dire che Papa quando le cose non vanno, abbiamo parlato l'altro giorno, anziché chiamare quel cretino imbecille di Gilletti, che occupa il servizio, occupa il servizio pubblico per sparare e annichilire le coscienze, perché annichilita le coscienze. In un minuto e 40 secondi spiego perché. Gli OGM in questo paese. Gli OGM non ce la faccio. Io rimango. ribadisco, se uno è contro, se uno non ha la casa, se uno è lì disperato, non vai a fare la manifestazione, non vai ad occupare una chiesa, non rompi i coglioni a una manifestazione legittima di movimenti politici come quella domani di Salvini, del signor Salvini. Allora, riascoltiamo il moderato Giancarlo Gentilini, perché stanno facendo discutere quello che le dichiarazioni di ieri di Gentilini alla Zanzara. Il signor Gentilini, che è l'ex sceriffo di Treviso, eccetera, eccetera, ha detto delle cose molto forti nei confronti di Tosi. Iniziamo dal fatto che Tosi semplicemente non deve rompere i coglioni. Dico, mettiti un po' di cenere sulla testa, come si fa, sì, nel campo ecclesiastico, sì, e aspetta il tempo. Aspetta il Verrà tempo. Giorno in cui tu potrai fare quella richiesta, sì, e presentarti al tuo popolo, sì, senza rompere i coglioni a nessuno. Adesso io ti parlo da Veneto, certo, tu rompi le palle. Tutti devono convergere verso l'unico candidato, che è Luca Zaia. Chi non è di questa filosofia va fuori di coglione. No. Se Tosi persiste in questa, sì, in questa sua idea, sì, va fuori dalla Lega. Poi ha detto anche che ci vuole una purga leghista nei confronti di Tosi, ma la parte forse più forte è sul Gay Pride, che come sapete sarà ospitato a Verona e che ha avuto il sì, incredibilmente, se vogliamo, della comune di Verona, cioè del suo sindaco. Ma Gentilini su questa cosa qui non ci vede, è furibondo. Tosi vuole fare il Gay Pride a Verona. Il gay... Va bene, ma io... Li sparo oggi. Come gli spari? Come? Sì, politicamente dico, non dire queste semenze, perché quella non è una eredità del popolo veneto. Non i gay non appartengono al popolo veneto, dici? No, assolutamente. Ma perché? Voglio dire però al signor Gentilini che è pieno di froci in Veneto, diciamo la verità. Anzi, froci veneti! Amici veneti, amici homosex, omosessuali, pervertiti, rotti in C, a quest'ora. Ma è un po' presto, gente, dopo daremo... anche persone che hanno l'eterosessualità. Omosessuali, ma pervertiti, transgender, travestiti, chiamateci per dire a Gentilini: siamo veneti eppure froci. Anzi, hashtag siamo veneti eppure froci, tutto attaccato, siamo veneti eppure froci. Io sono autorizzato sempre a dire froci, ve lo ricordo, sempre autorizzato dalle massime autorità civili, politiche e politiche militari del mondo gay. Viva i froci! Viva i froci! Sempre! Non voglio gli uomini con le tette, dice Gentilini. Li rispetto, però che non facciano esibizionismo, uomini con le tette come... Le ragazze, niente. Eia, alala. Com'è? Eia, alala. E poi le canzoni fasciste, ragazzi. Risentiamo, perché comunque, terribile, come dire, sono pezzi di vita reale. Sono... ma disgusto. Ma disgusto, dai, disgusto, su, è divertente. Disgusto. Ragazzi, lo dico, Gentilini che canta le canzoni fasciste è divertente, dai, su, è forte. Il dramma è che ci crede, ma è divertente, ma il dramma è che ci crede. Vabbè, perché uno va messo, diciamo la verità. Ma scusa, oggi ho letto da qualche parte che un signore in America, nel New Jersey, ti giuro, un signore in America del New Jersey, pare che abbia chiamato con nomi chiaramente con riferimento nazista quasi tutti i suoi figli. L'ultimo lo voleva chiamare Adolf Hitler. L'hanno rinchiuso in un ospedale. Si è presentato alla udienza per un processo che ovviamente gli hanno fatto. Si è presentato con la divisa di Hitler. Beh, e con i baffetti di Hitler. Sì. Una cosa meravigliosa nel New Jersey. No, ma è da portare un pezzo di comicità straordinaria. Un pezzo. Ma se uno è matto e vuole dire queste cose, se uno gli va di cantare una canzone facile, ma la canti, ma chi se ne frega? Allarmi, siamo fascisti, abbasso i comunisti. Noi ma del fascismo siamo i componenti. Com'è avanti. Ma dimmi un'altra canzone fascista. Anche Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquila sonò, quelli di tombe salutano il volo dai Capitoli al Quirinale. And now the headlines, news channel 3. E adesso i titoli del TG3. A Allarme dei servizi segreti, Italia possibile obiettivo del terrorismo islamico, anche perché centro della cristianità a Londra, intelligence sotto accusa per la mancata cattura del boia dell'ISIS. La Camera approva due mozioni diverse sulla Palestina, quella del PD che chiede il riconoscimento, quella dei centristi lo subordina all'accordo con Israele, delusione dell'OLP. Previsione Istat, nel primo trimestre l'Italia torna a crescere dopo tre anni, spread sotto 400, sì del Parlamento tedesco agli aiuti alla Grecia. Riunione del PD senza la minoranza interna, Cuperlo noi assenti perché le nostre proposte sempre ignorate, dalla segreteria Bersani eccesso di polemiche. Proteste a Roma contro la manifestazione della Lega che si terrà domani nella capitale, occupata una chiesa in Piazza del Popolo, i manifestanti caricati dalla polizia. Al via il processo d'appello per l'omicidio di Sara Scazzi, parla per la prima volta la zia Cosima, condannata all'ergastolo in primo grado, ma è stata gelosa di Sara. Lo scrittore Tar Ben Jaloun, al TG3, quello dell'ISIS non è il vero Islam, è un'ideologia totalitaria che odia le donne e la cultura, per questo ci fa paura. Comunque prima parlavamo del comunismo con Ferrero, no? Brevemente, perché sennò poi la gente si fa due coglioni a parlare di comunismo e fascismo, eccetera. E la prova che il comunismo è tutto finito, anche Cuba è tutto finito, sta in questo straordinario nell'incontro tra Massimo Ferrero e Fidel Castro. Cioè Massimo Ferrero, presidente attuale della Sampdoria, uomo di spettacolo, ormai prezzemolino televisivo, se così possiamo dire, ospite sì. fisso di Chiambretti, ha incontrato qualche tempo fa, quindicina di anni fa, Castro. Signor Castro, cioè Ferrero incontra Castro. Tutto finito, cioè Ferrero incontra Castro. Cioè, esiste, può esistere ancora il comunismo? Sì, è una parvenza di comunismo, una specie di satrapia castriana, così con, c'è scritto comunismo, i comunisti se la raccontano da soli, ma non esiste, dai. Il momento dell'incontro con Fidel Castro e i fotografi. Beh, quello è pazzesco, prego. È una cosa che veramente penso che qualsiasi mi emoziono, perché ancora oggi stringere la mano a un signore come Fidel Castro lo auguro a tutti voi. Io mi preparo, Fidel Castro e tutto, mi taglio i capelli, avete visto? Mi preparo, la farò breve e mi porto tre fotografi, otto cameraman, un aereo pieno di macchine da presa. Arrivo, mi alzo, arriva Fidel, arriva il cardinale, Fidel, e le do la mano. Faccio Fidel Castro. Allora, così, e faccio, fotografi, come? Non c'era nessuno, e lo faceva, adesso faccio Fidel Castro. Io dico, Massimo Ferrero, tunata, mollami la mano, mollami, tunata, e io, fotografi, e non è arrivato nessuno. Cioè, tu capisci che... No, capisci, no. Tu capisci che è tutto finito. Tutto totalmente finito. Totalmente finito. Devo ringraziare l'esercito di Cruciani. Devo dire che mi ha ricordato... L'esercito? Sì, l'esercito. Esiste anche l'esercito di Cruciani. Esiste anche quello di Parenzo, esiste quello di Cruciani. Che mi ha ricordato una cosa che avevo visto nella trasmissione di Chiambretti. Cioè, questo racconto straordinario di Ferrero con Fidel Castro. Massimiliano da Roma. Vai, Massimiliano, vai. Due. Dimmi. Grande paraculo, Crucià. Sì, io guarda, non la penso come te, anzi la penso esattamente all'opposto, ma se avessi la possibilità, oltre che la capacità di fare la trasmissione radiofonica, la farei come te, però la premessa. Allora guarda, ho 44 anni, sono un padre di famiglia, tu la butti in canzonella, domani i fascisti stanno di là, eccetera. Certo, 44 anni padre di famiglia. Sì. Io domani sto in piazza Vittorio alle 14. Ma domani è sabato, puoi anche permetterti di non lavorare magari, guarda, se tu sapessi che lavoro faccio io, di certo. Lo so. Vabbè, ma non manco so cazzi tua. Stiamo a sentire. Dimmi. Io domani sto a Piazza Vittorio in quanto romano e antifascista. Sì. Non la buttare in canzonella perché non sto scherziamo. Buttando in canzonella, stai parlando? Per cui che butto in canzonella? No, la butti in canzonella da prima, i fascisti stanno della. Ma non è in canzonella, è una mia idea che è ben radicata, amico mio, altro che canzonella. È una cazzata. Allora, siccome i leghisti, Salvini e gli altri camerieri, quell'altro quattro sorci che c'ha lui che si porterà domani a Piazza del Popolo, che si porterà lì per fargli il servizio d'ordine. Aspetta, tu, sui sorci no, Massimiliano, sui sorci ti fermo. C'è la pubblicità, purtroppo si è Confindustria, il potere, gli industriali, eccetera, eccetera. Però i sorci sono interessanti, resta lì. Siete proprio delle bestie. come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te? C'era Massimiliano da Roma, dice di essere un padre di famiglia, 44 anni o 42, non mi ricordo più, perché ha l'Alzheimer, sinceramente antifascista, l'Alzheimer, non si offendano i malati di Alzheimer, sennò qui mi si alza un casino pazzesco, galoppante, un modo di dire che non si dovrebbe utilizzare, però io lo utilizzo lo stesso e me ne frego, con tutto il rispetto di quelli che sono malati sul serio, e dice che domani andrà a manifestare contro Salvini perché si porta dietro anche dei sorci. Chi sarebbero questi sorci? I sorci, no, ho detto prima, i sorci di Casa Pound. I sorci di Casa Pound. Tutti, i sorci di Casa Pound. Sì, ma che vuol dire i sorci? Quelli che rivendicano i topi, per chi non era umano. Ma topi, ho capito, lo so cosa. Quelli che si rivendicano il diritto di poter affermare che sono i fascisti, il terzo millennio. Ma la macchetta frega, te, amica, sono un pericolo. Giuseppe, ma non sono un pericolo questi qua. Ognuno dice quello che vuole, no? Non sono un pericolo, dici te. Perché se non sono un pericolo. Ma tu che vai a fare domani a rompere i coglioni in piazza? Scusa. Ma perché non vado a rompere i coglioni? Io vado a rivendicare. Perché hai tempo da perdere domani? Beh, tu fai le domande mentre io vabbè, parlo. Vai, questa tattica mi rompe i coglioni. Vai, allora, stamma a sentire. Io domani vado in piazza perché la provocazione dei Salvini e dei suoi accoliti è inaccettabile. Questi quale hanno sarebbe la provocazione? Hanno la provocazione, vabbè, te lo dico io, hanno insultato Roma per anni, hanno governato il paese per quasi 15, hanno determinato tutto ciò che è gran parte della crisi attuale rispetto a vabbè, quello che riguarda domani l'Italia. Manifestano contro Renzi, però, contro il governo Renzi. Domani vengono a rifarci una verginità politica che non ha ragione politica di esistere, perché non ce l'hanno. Capito? Vabbè, ma questo tu sei Salvini, guarda Massimiliano, ma tu hai tutto gli danno, spazio, no, amico te. Mio Salvini è presente in tutte le televisioni come il nuovo, no, Massimiliano. È un vecchio trombone quel porco, prenditela, capito? Quel porco pure porco è adesso, ma beh, porco tutto ciò che gli posso dire, però io pure qua non la voglio banalizzare, perché lui ma gli è hai detto porco sorcio e tutto gli hai detto, non lo so, non la vuoi certo, però perché sì, perché quello che se meritano, ma perché quello che hanno fatto e hanno detto loro razzisti, certo loro sì, e vengono a Roma a provocare. Sì, ma domani tu come vai? Cioè, secondo te, scusa, no, per capire, domani io dico, guarda, manifesta, che deve fare? Se dipendesse da te, attacco alla manifestazione con i caschi, con i bastoni e tutto. Da me, se dipendesse da me, ripeto, sottolineo, se dipendesse da me, quelli lì non dovrebbero neanche manifestare a Roma. Cioè, e proibire la manifestazione di Salvini, vabbè, d'accordo. A te ti piacerebbe che io ti dico che volevo sfondare, eccetera. Ma domani è quello che cosa succede. Io domani ti quoto gli incidenti, poi magari non succede. Non dire, perché incidenti è colpa loro se ci stanno. Ah, è colpa loro. È colpa dei Salvini, dei Cannone e tutta quella banda, se mai ci fossero. Perché loro, i leghisti, cos'è che fanno? Che sfruttano fanno questo momento. Che gli è permesso dai mezzi di comunicazione, tra i quali Rai, Mediaset, radio, televisione, che gli fa, lo sai perché lo invitano sempre? Perché? A quel buffone? Perché gli fa audience. Eh beh, certo. È chiaro, anche perché ma lui fa audience. Tu non fai audience, no, lui fa audience. Presenta un pezzo di paese anche purtroppo. Tu sei Cruciani, no, Massimiliano, tu non fai audience, lui fa audience, per questo che lo invitano. Roma, fammi parlare. C'è un pezzo di Roma e la dovete prendere seriamente, cosa? E sta roba Salvini, ma quale pezzo di Roma? Venendo? Ma sono quattro gatti rispetto ai romani, di cui non fotte un cazzo che bloccate la città, come la bloccano loro oggi per occupare la chiesa. Per occupare la chiesa avete bloccato mezza città. Zitto, ma quale occupare la chiesa? Non sai di che parli. Ma come no? Avete occupato la chiesa o no? Guarda, veramente, ma è stata occupata una chiesa? Ma è stata occupata una chiesa o no? Ma sì, ma non è successo niente. Su, quella roba non l'accetta. Vabbè, ma lo vogliamo dimostrare, siccome siamo in democrazia, lo direte senza fare casino. Non i fascisti stanno della sì, assolutamente, sono convinto. No, i fascisti siete voi che volete. Ma perché? Perché sono fascisti? Perché sono intolleranti? Ma non c'è il diritto, ma lo ha detto a fare una contromanifestazione. Lo ha detto, lo ha detto prima. Non vorrebbe la manifestazione di Salvini, fosse per lui sarebbe fuori legge. Ma lo vedi che sono fascisti? E se non c'è, allora, se fino a prova contraria siamo in Italia, Repubblica Democratica Antifascista, molti di quei sorci che saranno a Piazza del Popolo, vabbè, la Repubblica Italiana la chiamano il 25 aprile, dunque sarebbero da far fuori, dunque i fascisti, sì lo so, ma i fascisti sarebbero da fare fuori, allora metto la mia faccia e il mio corpo, vabbè, e lo dovrebbe fare lo Stato. L'importante è che non fai casino, sennò ti pili due manganellate domani, ma sì, sai quante me ne fanno. Ciao Giuseppe. Ciao Massimiliano. Ciao. Il democratico Messina, non so manco come si chiama di nome, dei 99 posse, i simpatici amici dei 99 posse napoletani, campani, quello che è. Signor Messina, senti qua, sincero democratico, signor Messina, amici miei. 28 tutti in piazza contro Salvini, perché Salvini, come si dice a Napoli, è una lotta e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede per le strade della città. Va preso questa, a calci nel culo ogni volta che si presenta per le strade di città. Brutto, Mauro brutto. Verona, che non è Mauro da Mantova, credo. Mauro Verona, vai. Ciao. Dimmi, Mauro. Allora, vorrei dire al mio caro amico mio David Parenzo, siccome me non mi sta bene quello che fa il governo Renzi, domani vengo a manifestare a casa tua, te la occupo e poi tu vediamo se chiami la polizia o se... No, ma per Parenzo occupare una chiesa così è una cosa normale, un atto di protesta democratico. Ho detto un'altra cosa, Ho detto, sono andati dentro la chiesa, si sono seduti dentro. Se facevo picchetto perché era finita la carta igienica, è la stessa cosa, fanno ridere. Ma va bene, possono far sorridere, io non condivido buona parte delle cose che dicono, ma patetico, dai. Posso condividere il fatto che facciano una contromanifestazione, ma non prenderai mai a calci nessuno. Se la polizia li porta via non ha mai ragione. Poveretti, no, la polizia non è guarda che oggi non è, a parte qualche scontro invece più violento, ma dentro quella chiesa non è successo assolutamente nulla. No, li hanno trascinati fuori come si faceva nella marcia del sale di Gandhi. Ma stai paragonando questi quattro scalcagnati alla marcia di Gandhi? Ma ti rendi conto della follia che dici? C'erano o quando in passato gli operai si sedevano sulla strada ferrata, e incrociavano le gambe e hanno portati fuori a peso dalla polizia. Siccome non sono non d'accordo violenta sulla manifestazione di Salvini, io manifesto e occupo la casa di Parenzo. Ma occupati casa tua, casa mia. No, ma ha ragione Mauro, ecco, ma che è casa loro la chiesa? Che è casa loro la chiesa? Ma è stato un gesto simbolico di qualche minuto. Non è terrorismo quello, non cominciamo a esaltare le cose. Grazie Mauro. Gino Caserta, vai Gino. Gino, vai. Sì, no, sei in viva voce, amico mio, sei in viva voce, dai. Calmati, volevo intervenire sulle parole del comunista Capanna. Sì, dette nella trasmissione. Vabbè, dai, non c'è bisogno che ricapitoli, lo sappiamo, le parole di Capanna sui giovani, dai. Giovani che meritano avere pensioni mise. Sì, ma non mi devi ricapitolare la cosa, che ne pensi? Penso che è una merda. Capanna. Perché uno che dice momento. Uno che dice questo o è un fuori di testa. No, un momento, Ginetta dell'idroscalo, un momento. Incitando alla violenza. C'è il diritto alla rivoluzione. Un momento, Ginetto dell'idroscalo. C'è il diritto alla rivoluzione. Di che cazzo stiamo parlando? Sì, questo negli anni 70, quando Democrazia Proletaria metteva ferro e fuoco le città durante le sue manifestazioni. Mettiamo in ordine le cose, ferro e fuoco mettevamo le università, le piazze, le strade per far portare la democrazia in questo paese, mettiamo in ordine un attimo. Degno telespettatore di Giletti, quell'uomo del servizio pubblico in mondo, l'uomo videns in mondo del servizio pubblico. Fermi tutti, grazie Gino, fermi tutti. Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68. Quando ero amico di Capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. La segreteria telefonica per insultare, attaccare e magari pure dire qualche parolina, no, di conforto a Mario Capanna. Come si può sintetizzare il pensiero di Mario Capanna? Mario Capanna, sei un ladro, sei un miserabile ladro, vergognati. Giovani, facciamo una raccolta firme per far l'eutanasia a chi ha il vitalizio ed è dell'età di Capanna! Ehi, signor Capanna, facile fare il frocio col culo degli altri, eh? Caro Capanna, se sono tutti uno sfigato e paternalista, si inviti alla rivoluzione, va bene, allora noi veniamo a prenderti, ti sequestriamo e in cambio ti diamo tutti i soldi che ti ha dato ingiustamente lo Stato. Coglione. Mario, c'è qui alla porta un compagno che chiede qualcosa per la costruzione di una piscina per i bambini degli operai. Dagli due secchi d'acqua. Capanna, sei un cialtrone. Se i giovani lottassero, vedrebbero da te e ti gonfierebbero, perché gli hai fregato il futuro. Capanna, sei un cialtrone. Per quello che ha detto sui giovani senza lavoro, Capanna è il più paraculo, il più ipocrita, il più miserabile sinistronzo di tutti i tempi. E non mi pento. Telefonate sempre 02 46 52 40 10. Lasciate un messaggio su Capanna 02 46 52 40 10. Un personaggio che o è pazzo oppure potrebbe vincere il Nobel. Vincerà il Nobel, eh? Cioè, due sono le cose, perché ho sentito pareri discordanti. La maggior parte dicono: vabbè, è completamente pazzo, vuole creare Frankenstein, è fuori di testa, è un esibizionista, quello che ho letto online, eh? Ma anche parere di suoi colleghi, scienziati, professori, studiosi, eccetera eccetera. Però siccome a noi piacciono le sfide e pensiamo che se uno fa il neurochirurgo funzionale, se ha una, come dire, se espone una teoria fino a prova contraria, ripeto, non sono arrivati i carabinieri, sentiamo in cosa consiste questa roba qui. Sergio Canavero, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dunque, allora, torniamo indietro, torniamo indietro qualche anno, dunque 1900. Nel 1900 tutti gli esperti, tutti gli strafighi delle università di tutto il mondo giuravano che il volo in un oggetto più pesante dell'aria era assolutamente impossibile. Il che vuol dire che io a giugno ho un serio problema. Cioè? Come vado ad Annapolis a dire tutto agli americani? Perché non puoi viaggiare, non potresti viaggiare in teoria. Non posso viaggiare, è un miraggio. Poi sono arrivati i fratelli Wright, che erano dei semplici ciclisti, che non erano né professori, non avevano la laurea, non avevano diplomi, insomma, sapevo com'è andata. Non è che tutte le scoperte però siano encomiabili. Guarda, Parenzo è molto critico, dice sostanzialmente che sei il professor Frankenstein. Io lo chiamo Frankenstein Junior, hai visto il film? Frankenstein. Lo sapete anche perché è giusto. Perché è giusto? Ma ragazzi, allora torniamo indietro tre secondi. 1797, Giovanni Aldini, nipote di Galvani, utilizzando la batteria di volta, va a stimolare persone appena uccise, appena impiccate, e queste li fa muovere per 8 ore. Questo impressiona tutti quanti. Mary Shelley nel 1818, ancora impressionata da quegli studi, scrive Frankenstein. L'elettricità, tra l'altro, ci servirà in questa. Però tu ti stai paragonando non in maniera non particolare. Totalmente modesta, ma è giusto che un neurochirurgo funzionale che annuncia al mondo che entro 2 anni potrebbe diventare in realtà il primo trapianto completo di corpo può fare. Aspetta, ti stai paragonando come dire, alle più grandi scoperte della storia del mondo. Beh, tra le più grandi scoperte, effettivamente così. Allora, potrebbe essere, correggimi se sbaglio, nel mio linguaggio, scusami Sergio, diamoci da tu, nel mio linguaggio siete già amici, non siamo amici, certo. Allora, piantate la testa di razzi nel corpo di Umberto Eco. Mettiamoci d'accordo. Partiamo da quello che ha detto Parenzo. È una stronzata questa roba qua che dice Parenzo. Cioè, uno potrebbe in teoria a un certo punto arrivare a trapiantare la testa di razzi nel corpo di Umberto Eco. È una cazzata oppure no? Ma guarda, io domenica sono a TEDx a Verona e parlerò proprio di questo. Cioè della testa di razzi. L'estensione della vita e questa è veramente incredibile, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio fino a domenica in attesa. No, ma noi non vogliamo arrivare fino a domenica. Parenzo si domanda: è vero o non è vero? È vero o non è vero che si può arrivare, si potrà, in teoria? Scusami, si potrà arrivare a prendere la testa di razzi o di Scilipoti? No, però dovrebbe essere il contrario. Il contrario, in teoria. No, o prendere la testa di Renzo Piano. Allora facciamo così: come Scilipoti lo trapiantiamo? Che cosa? Sì, dai, non ti piace un bel trapianto alla Scilipoti? Lo possiamo anche chiamare, invece di Heaven, Scilipoti. Vado negli Stati Uniti e avrò problemi a pronunciarlo perché è difficile, SC, you know. Però insomma, vabbè. No, però scusami un attimo, dimmi se ho capito male. Allora, la testa ricevente spostata su un donatore. Allora, senti, allora parliamoci con i nomi. No. Welby, ok? Welby, ve lo ricordate tutti? Sì, come no, certo. Allora, testa di Welby staccata, corpo di Welby seppellito. Sì. Il qualunque donatore di organi, ahimè, purtroppo, che abbia un incidente dichiarato cerebralmente morto, invece di togliergli cuore, polmoni, eccetera, eccetera, gli si toglie il corpo e si riattacca alla testa di Welby. Si riattacca alla testa di Welby, il quale in quel momento è... In quel momento è vivo per modo di dire, diciamo, no? No, viene poi tenuto sedato, c'è tutto l'intervento. C'è tutto l'intervento, certo. Coma farmacologico, collegamento del midollo, stimolazione elettronica. Dopo un anno potrebbe addirittura camminare. Dopo un anno si attende che cammini, in realtà spero prima. Però posso dirti una cosa importante. Allora, questa in realtà la dico a te, ma la dico ai signori esperti. Allora, i signori esperti vadano a ristudiarsi che cosa è successo in questi Corbellini ti ha massacrato, il signor Gilberto Corbellini, per esempio. E anche allora, Corbellini, allora diciamo a Corbellini che potrebbe semplicemente andare a vedere che cosa è successo a ottobre dell'altro anno, in cui un paziente paraplegico, in cui era stato troncato il midollo, i polacchi gli hanno fatto un intervento sperimentale e questo dopo un anno camminava, cioè è passato da paraplegico a camminare gay. Di nuovo. Dopodiché vorrei anche Berlusconi ti ha scritto? Scusami? Berlusconi già ti ha scritto perché vorrebbe magari sopravvivere in un altro, in un'altra vita con il corpo di qualcun altro. Tu scherzi, tu adesso hai fatto la battuta. Però? Ma signori, alcuni, non posso fare i nomi, da tutto il mondo ci sono state delle offerte che possono avvicinarsi più o meno a qualcuno che potrebbe assomigliare a Berlusconi, cioè? Ovviamente. Cioè qualche miliardario magnate, sicuramente. Cioè qualche magnate, qualche tycoon. Altro, non ti ho detto abbastanza. Ovviamente che cosa ho detto? No, non lo faccio. Allora, abbiamo fatto il crowdfunding grazie a un russo. Ho scritto un libro disponibile su Amazon, tutti lo possono comprare, questi soldi andranno da tutto il mondo, perché verrà comprato in tutto il mondo, andrà direttamente a finanziare questo progetto. Ma fammi un altro esempio, scusami, per far capire la gente, esatto, oltre a Welby, fammi un altro esempio concreto, cioè Christopher Reeves, allora? Superman. Sì. No, fammi ricordate? Un altro esempio di chi la testa di chi e il corpo di chi, dunque? Tetraplegico, allora attenzione, un tetraplegico in cui il danno sia basso, cioè abbasso nel midollo cervicale per motivi che adesso non ti sto a entrare, eccetera, in cui allora si taglia poi sopra il livello del danno e si va a riattaccare il corpo, quindi questa è un'altra possibilità. Poi ovviamente esiste la terza categoria, adesso stavo Newsweek... No, ma dove va la testa, scusa? No, ma la testa di chi è? La testa è Christopher Reeves, che non ha il corpo ormai devastato. Sì. Dobbiamo mettere un corpo sano, evidentemente. Sì, no, allora, il corpo sano, come ti stavo dicendo, il donatore d'organi è un donatore d'organi che ha avuto un incidente, un'emorragia cerebrale, in cui ovviamente ci sia solo il danno cerebrale. Quindi è un cadavere. Cerebralmente morto, si stacca la testa e si riattacca. È un cadavere. Ah, ma è una follia. No, dai, aspetta un attimo. Morto. Quindi è un cadavere. Sì, un cadavere. Ma teoricamente anche Hitler si potrebbe utilizzare, o no? Il corpo. Se ci fosse il corpo di Hitler, si potrebbe utilizzare il corpo di Hitler. Senti, io preferisco Stalin. Cioè, preferisci Stalin a Hitler? Sì, sei più staliniano. Stalin tu sai che in russo deriva da acciaio, come Stalin tedesco. Sì, dunque, in teoria. Secondo me funziona meglio, dura di più. Funziona meglio. Così ne può ammazzare altri 60 milioni, capisci? Ah, io prendo quello di Rocco Siffredi. Se mi deve succedere. Ah, anche Rocco, anche Rocco potrebbe. No, per lunga vita, ecco. Ma chi ti ha scritto fino adesso? Anche persone, che ne so, transessuali? Transessuali, e come stavo dicendo Newsweek, appena è uscito l'articolo che mi ha fatto ieri, eccetera, i transessuali ne parla, sono fra la categoria interessata. Perché, cioè, perché? Ma ti hanno scritto? Quando si farà il primo? Fammi capire. Quando voglio capire questa cosa dei transessuali. No, ma guarda che lascia stare i transessuali, è più interessante. Ma lascia perdere. Vabbè, poi parli dei transessuali, ma quando farai il primo intervento, veramente? Cioè, materialmente, quando è che staccherà la prima testa per attaccarla su un cadavere? Ma è interessante capirlo. Quando? Quando si potrà fare? Un cadavere mai? Perché se fosse un cadavere non potremmo farlo, invece su una persona viva è quello che faremo, se avremo l'ok negli Stati Uniti adesso a giugno, tra un anno. 2 anni per organizzare il team e si fa. 2 anni, già è stato detto, 2 anni. Non in Italia, sei superato. Ragazzi, gli italiani vanno bene per fare spaghetti e pizza, ottimo, però... ma tutto il resto, la scienza, per carità. No, ma no. Allora spiegami sta cosa dei transessuali, è vero che ti hanno scritto un sacco di trans? Pieno zeppo, e il gruppo in assoluto più grosso di quelli che... Ma perché? Spiegami, che cosa potrebbe accadere per un trans tecnicamente? Cioè... Allora, tu sai che, adesso sarebbe un po' lungo, ma facciamolo semplice, un transessuale col corpo di femmina e il cervello di maschio, o viceversa, va a ricevere il corpo di una femmina o di un maschio che anche lì c'è addormente morto, eccetera eccetera. Però è questo verrà molto più in là. Molto all'inizio più in là. Sarà per una condizione medica, distrofie muscolari e tetraplegie del tipo che ho detto. Poi dopo più in là sarà questo e poi ovviamente arriveremo, io parlerò appunto dell'estensione della vita proprio a TEDx Verona. E estensione domenica... della vita fino a quando? Cioè uno in teoria potrebbe, ma queste cose costeranno un sacco di soldi, canavero, cioè giusto i tycoon ti possono chiamare, perché beh, dico scusa, io voglio sopravvivere. Scusa, ma l'hai detto tu? Ti hai chiamato Berlusconi? Allora, per democratizzare questa cosa bisogna che... Che lo Stato voi... ci metta i soldi? Come? No, o no, i privati? No, lo... che... no, allora, attenzione, adesso il discorso è molto più lungo, però tu hai detto una cosa giustissima, eccetera. E come democratizziamo questa cosa, eccetera. Come facciamo questo, il trans ricco e il trans povero, diciamo. Bravo, bravo. E dovrete deciderlo voi questo. Va bene, il sistema sanitario nazionale, Canavero, lei è un grande comunicatore, magari... Non come te, non come te. Ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao carissimo. Ciao, ciao. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. Vabbè, un uomo, una donna, so che se sia uomo o donna c'ha la barba, e quindi, ma guarda che lì la cosa è molto complicata, perché sono i trans, perché ci sono tante famiglie, come lei sa, di queens, i trans, poi quelli che cambiano sesso più volte. Allora ragazzi, i vitalizi per i beh, fra poco vi faremo ascoltare un documento pazzesco, un documento pazzesco. Intanto facciamo il punto della situazione sulle persone che abbiamo sentito. Il signor Cirino Pomicino, il quale dice sostanzialmente che è una vergogna, eccetera, cioè non dice una vergogna, anzi dice beh, toglietemelo pure, però è un mio diritto e soprattutto lo togliete alle famiglie, cioè alle vedove, sì. Alle vedove. Sì. Lui è abituato al fatto che in Parlamento in realtà non ci andavano le donne, ci andavano solo gli uomini, e anche adesso è così, per carità, sono in maggioranza uomini. Meno, però parla di vedove e soprattutto dice insomma che è una specie di, no, di rapina nei confronti delle famiglie. Signor Cirino Pomicino, capite? Cioè togliere il vitalizio ai condannati, togliere il vitalizio è una rapina alle famiglie. Io sono contento che tolgono questo vitalizio, ma è un'aggressione alle famiglie, non ai parlamentari. Anche le vedove dei parlamentari vengono tolte. E poi c'è Sgarbone che abbiamo sentito, il signor Sgarbi, il quale è condannato per truffa, come sapete, prende il vitalizio di 5.000 euro, eccetera. Io non so se rientrerà, se questa cosa passerà, però era furibondo, furibondo. E le condanne come quelle di Cavan hanno senso perché ha rubato. Io non ho preso una lira, porca puttana! Questa storia che così devono ripetere si basa su una persona che era assente, senza assenso. Ho capito, però formalmente... Non ho preso una lira, formalmente... Andrebbe messo all'ergastolo. Allora, abbiamo chiamato by phone, come al solito, abbiamo chiamato il signor Giancarlo Cito. Giancarlo Cito è stato anche sindaco di Taranto, protagonista di un pezzo di vita italiana, in particolare di vita tarantina meridionale, ha fondato partiti, veniva dal Movimento Sociale Italiano. Chiusa per sempre, per fortuna. Varie condanne. Il signor Giancarlo Cito prende poco più di 2.000 euro netti di vitalizio e ha accumulato diverse condanne. Giancarlo Cito, ve lo ricordate? Uno molto sanguigno ed è rimasto molto sanguigno. Sentite, Giancarlo Cito. Pronto? Dottor Cito? Chi parla? Sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. E Parenzo. Cerchiamo Giancarlo Cito. Radio 24. Sì. Un attimo su. Ci stavo aspettando, sì, grazie. Pronto? Oh, buonasera, come sta? Beh, insomma, ci difendiamo. Si difende? Beh, sì. Senta, ma ha visto questa storia del vitalizio? Le vogliono togliere il vitalizio perché lei ha condanne definitive, non solo a lei, ovviamente. Guardati, quello che dicono loro, te ne fottu un cazzo. perché dopo 25 anni hanno detto che sono innocente, quindi che non mi rompessero i coglioni. No, scusa, se loro vogliono, questo è incostituzionale, quello che vorrebbero fare questi signori, sì, facessero questi e poi vedremo che cosa succederà. Ce lo dice anche, scusi, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, insomma si ma sta... loro possono dire quello che vogliono, un vitalizio che uno lo prende da oltre dieci anni e tutto il resto, loro che cosa togli? Che sì, un padre eterno che tu dici, oggi dovete morire. Non ho capito, chi cazzo sei? Ma lei no, serve? Scusi, però lei è stato condannato anche per concorso esterno in associazione mafiosa. Io dopo 25 anni, punto, e poi non parlo più, sì, sono stato assolto dalla Cassazione, il fatto non sussiste. No, però scusi, lei ha delle condanne definitive o no? Non ci siamo capiti? No. Che parla la lingua italiana. No, sto no. Dicendo. Dottor Cito, calma, dicendo. Intanto calma, calma! Calma. Calmiamoci, oh, calmiamoci, calmiamoci, calmiamoci tutti. Allora, prego. Lei che condanne definitive ha? Ma mica è un interrogatorio questo, dottor Cito? No, e io le sto dicendo. Sì. Dopo 25 anni, la Cassazione, il 16 gennaio dell'anno scorso, sì, ha detto il fatto non sussiste. Quale? Punto. Quale, scusi? Non devo dire più nulla. No, ma quale fatto? Quello mafioso? Stiamo parlando del concorso esterno. Del concorso esterno. Adesso questo controlleremo, naturalmente. Lei me lo sta dicendo, io ci credo, naturalmente. Cioè, lei non ha nessuna condanna definitiva per concorso esterno, sta dicendo. Giancarlo Cito, Giancarlo Cito, il quale ha accumulato diverse condanne, ha già pagato con 4 anni definitivo il concorso esterno. Siamo andati a controllare. Dunque non è vero che la Cassazione nel gennaio del 2014 ha tolto la condanna per concorso esterno, ha tolto un'altra condanna per corruzione. Peraltro il signor Cito ha una ulteriore condanna per corruzione per una storia che riguarda il porto, adesso non mi ricordo, non il porto, non è questo il punto. Concorso esterno, credo corruzione, concorso esterno dell'associazione mafiosa, eccetera. Per cui a noi non ci può venire a raccontare balle, sul momento bisogna andare a controllare, ma una volta che controlliamo, 4 anni per concorso esterno. Poi dopodiché si possono fare tutti i discorsi del mondo, però sì, non ci può venire a pigliare per il culo. 4 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. E comunque avete sentito cosa pensa dell'abolizione del vitalizio per i condannati, no? Ci vogliono lasciare alla fame, incostituzionale, che cazzo vogliono, eccetera, eccetera. Lo dicesse alla Boldrini, a Grasso, a questi qua. Maria da Verona, vai, Maria. Pronto? Buonasera. Dimmi. Allora, io ho telefonato per quello che è stato approvato oggi in Parlamento, le due mozioni. Una che approva lo Stato di Palestina. Sì, un attimo solo. Aspetti Maria, aspetti. Pronto? Sì, buonasera. Io sono sempre Cruciani prima. Non capisco perché il dottor Cito non ha voluto più parlarci. E ha chiuso? No, adesso non c'è. Ha lasciato il telefono in ufficio, non c'è. No, ma l'ho sentito prima la voce. Perché ha chiuso? No, ha chiuso. Noi non volevamo fare nulla. Volevamo solo ricordare alcune cose insieme al dottor Cito. Chiariamo un attimo. Volevamo chiedere scusa. Volevamo anche chiedere scusa. Non c'è. Ma non ho sentito... Scusa perché non no, c'è. No, ma... scusa intanto, vabbè. Modo di... No, vabbè. Ma è lì? Siccome prima ho sentito ma la quante persone sono parlando? No, due, io Cruciani due, e Parenzo siamo facciamo un super cazzo. Ma non ho capito, c'è un numero di telefono o no? Possiamo raggiungerlo anche per chiedergli scusa di quella di quel diverbio che c'è stato prima? Non c'è. Ma l'ho sentito non prima. C'è. Non c'è. Perché ci deve coglionare per no, forza? Dai, non capisco perché, non c'è motivo. No, no, vogliamo veramente chiarirci. Non è bello che ci si insulta così al telefono. Ma se non c'è, non possiamo chiarire. No, possiamo, ma lo dico con tranquillità. Cioè, vabbè. Cioè, è un peccato che sia venuto fuori questa cosa. Non ha senso, capito? Me lo passi un attimo, ma con gentilezza. Non c'è. Ma non c'è. Lo si può raggiungere in qualche modo telefonicamente oppure è impossibile? No, venite a casa, te lo trovate a Taranto. Come, scusi? Dove state voi? A Roma, no, noi a Roma, siamo a Milano. Ah, mi dispiace. Se... Oh, a Taranto, sì, certo, saremo a Taranto. Ma esiste il telefono. Ma esistono i telefoni, i cellulari, ci può dare Skype? Per non ci sta, mi dispiace. Ma lei chi è, il segretario? Salve, buonasera. La segreteria, chi è? Vabbè, Maria, dai, che stavi dicendo? Su. che sono un po' arrabbiata per quelle due mozioni che sono state approvate in Parlamento. Una che riconosce lo Stato di Palestina e una che non lo riconosce. Sì, vabbè, lei dice perché voleva più chiarezza su questo. Sì, volevo che finalmente il Parlamento riconoscesse lo Stato di Palestina. C'è qualcuno in Parlamento che pensa che non sia il momento di riconoscere lo Stato di Palestina. No, non hanno detto esattamente questo. No, ma non volevo chiedere a Parenzo lui Parenzo, no, Parenzo, questa è un'ulteriore evoluzione di Parenzo. No, Parenzo è contrario al riconoscimento dello Stato di Palestina, da quello che ho capito. No, sono contrario a adesso a non che... fare la politica. Non è che sono contrario in questo momento sei contrario. Penso che fino a quando c'è un partito che controlla la striscia di Gaza, che si chiama Hamas, che ha nel suo statuto la distruzione dello Stato di Israele, non sei in Parlamento, penso che non si possa riconoscere un paese che ti vuol distruggere. Sintetizzato abbastanza? Ascolta, Parenzo, sì. Però non vuole distruggere l'Italia, vuole distruggere Israele, non c'è dubbio. Difendi sempre i più deboli, sei... No, ma scusami, il califfo, tu riconosceresti lo Stato... Vabbè, che adesso non è uguale, il califfo non è, uguale. Non è la Palestina, dai, su, è evidente dai, che dai, non è così, ma Hamas ma è nella che lista... i coglioni? È nella blacklist dei movimenti terroristi e, francamente, vabbè, riconoscere una parte di paese che è governato da terroristi diventa rischioso. Va bene, Maria, grazie. Armida da Milano, vai, Armida, Milano. Cucù. Cucù, cucù, cucù, cucù, cucù, cucù, cucù, cucù, che vuoi, dimmi. Allora, no, ti volevo dire che tra Capanna e Ferrero, che hanno chiamato prima, cioè no, Capanna nelle sede passate e Ferrero prima, allora c'è da aver paura andare in giro in macchina, perché Ferrero vede tutto rosso, anche il suo conto. No, rosso non credo sia. Se ci sono i semafori verdi, lui vede rosso, per cui... si ferma, hai capito? Perché no, Armida, ma se io ho capito, ma lei è un uomo o una donna? Una donna. Io sono una donna. Ah, tu sei una donna, no, perché non avevo capito bene, scusa, ma non era un'offesa. Sai perché non hai capito? Perché stavo deglutando, ho mangiato due tagli. Ah, ecco, vedi? Olio deglutendo, sì. Vabbè, vabbè, non avevo capito che sei una donna, scusami. Ma Armida può essere anche un uomo, che ne sai, magari di nazionalità va alla pesca. Comunque, vabbè, sei una donna, dai, va bene. Sì. La voce mascolina, sei una donna, dai. Come mascolina? Beh, la voce mascolina, dai. Vai, no, non dire così. Sono una femmina, un po' vecchiotta, magari, 63 anni, una che ha fumato. No, volevo dire che Ferrero... Ora mi sta chiamando Sgarbi che vuole intervenire. Vito, saluta Vittorio. No, sta sentendo, fallo d'accordo. Intervenire, adesso ragione, lo faccio intervenire dopo la pubblicità. Però, Vittorio, cioè, tu dovresti dire io sono Sgarbi e me ne fotto di queste stronzate. Se viene a fare le cose, no, sono contrario perché i vitalizi e i condannati sì, però la truffa, eccetera, non è stata fatta. Tu dovresti dire, Vittorio Sgarbi, dovrebbe dire, io sono Vittorio Sgarbi e non mi dovete rompere i coglioni, questo è. Mi stai chiamando, dopo la pubblicità ti chiamo, però quando uno è in diretta non è che può avere i telefoni qui che squillano, dai. Allora, vi assicuro che non è concordato nella maniera più assoluta, ma oggi, siccome una persona mi ha mandato un vecchio Sgarbi di non mi ricordo quale anno, dovrebbe essere metà degli anni 90, 96, forse 97, mi sono inventato questa rubrica che si chiama Sgarbi... Beh, lo sentite adesso. Sgarbi Collection. Caro Di Pietro, ci sono i responsabili della vecchia Democrazia Cristiana. Altro che valori! Condannano Craxi, intanto che era sul giornale di oggi, si scopre che Craxi, il tesoro di Craxi non esiste, sentenza. Secondo i giudici tributari, non c'è prova dell'immenso patrimonio attribuito. Allora avete rotto il cazzo, avete rotto i coglioni, mandando solo Craxi in esilio e dovendolo arrestare per 150 anni e gli altri sono tutti lì! Vergogna! Altro che valori! Valori del buco del culo! Questa è la storia! Sgarbi Collection. Vittorio! È profetico. In realtà non ti ho chiamato per quello che tu pensavi. Volevo difendere Cito, che conosco bene, che ha fatto cose buone. Naturalmente Come difendere Cito? Ma ti spiego perché. Perché la logica è questa: tu puoi essere condannato per qualunque cosa, non so i suoi, ma la condanna per concorso esterno presuppone un rapporto con la mafia. E quindi hai 4 anni? Dai, ne 8, 15. Vabbè, anche cosa ha preso 4? È una scoreggia fritta? No, nessuno ha preso. Cuffaro ne ha presi 7. Sì. Pure da lui. 4 anni, mi devi. Due si chiede, ma cos'è che hai fatto? per 4 anni, perché uno che aiuta la mafia e hai 4 anni vuol dire che lo Stato è veramente clemente. Questo volevo dire. Cioè, io credo che lui sia innocente, avrà fatto pasticci, ma deve essere così labile la colpa che forse è una telefonata. Cioè, no, il problema è un altro. Il concorso esterno è una cosa ridicola. Tu dovresti dire invece, scusa, su questa cosa dei vitalizi ai condannati, tu sei troppo morbido. Tu dovresti dire, io sono Sgarbi, perché uno potrebbe dire... Ma non volevo parlare di me, io aspetto solo che me lo tolgano, non me ne frega niente. Credo che, come si è detto dal giornale, lo faranno per reati gravi o addirittura per reati interni al mandato. Io sono una cosa talmente vecchia, ma non volevo parlare di me, dico lui, che evidentemente sta sui coglioni, ha pulito Taranto, ha fatto delle cose non sbagliate, ma diciamo che non abbia fatto niente, ma 4 anni? Ha fatto giocato a carte con un mafioso, cioè, questo devi chiedere, cioè, no, lui cerca di cancellare, ma lo Stato che dà un'onta e sfregia in questo modo uno con 4 anni, proprio, cioè, tu dici, se è amico dei mafiosi dagliene 8. E lei 4, non so che cosa vuol dire 4. Senti, ti piace Sgarbi Collection? Beh, quello che anno era quello con Di Pietro? Ma Di Pietro crack sarà 96-97. Vabbè, ogni giorno vorrei uno Sgarbi Collection. Vabbè, era solo questo volevo dire, perché attaccare Cito è troppo facile, non attacchiamo Cito. Ma no, attacchiamo Cito, noi attacchiamo tutti, non ce ne frega un cazzo. Però io sto dicendo, va bene, ho capito, però pure sta cosa, tu dovresti dire o togliete a tutti il vitalizio ai condannati, qualsiasi condanna, e si decide una tabula rasa. Oppure solamente per i mafiosi, però a quel punto un assassino, se ci fosse un parlamentare assassino. Ti ho citato sì, ieri, un parlamentare assassino, un parlamentare stupra qualcuno. Dove sono i limiti? Cioè, qui stanno facendo tutti demagogia, Grasso, la Boldrini, eccetera, senza avere un'idea di quello che cazzo vogliono fare. Vogliamo togliere i condannati? Benissimo, toglieteli. Allora lo togliamo a chiunque abbia una condanna, oppure date una. No, questo è giusto. Ho capito, perché allora se uno è stato condannato 5 anni. Perché io difendo quelli che sono stati condannati, ad esempio, te l'ho spiegato già, per finanziamento illecito alla politica. Ma perché uno? Avrei chiamato se sono detto i 4 anni. 4 anni mi sono trovato una cosa, prova di un'Italia corrotta, cioè che inventa una cosa, infama qualcuno e gli appiccica 4 anni. Se parli con la mafia, l'aiuti 10 anni, non 4. Comunque, ma Alfano ti ha chiamato per questa cosa che hai detto, che tipo Franca sì, stai orrendo, bitor soluto, terribile. Mi ha querelato la cancelliere, perché ha detto Puzzona è protetta da Napoletano. Protetta da Napoletano o raccomandata è un dato oggettivo. Puzzona ha nominato un tecnico olfattivo per fare un incidente probatorio, che l'annusi un po' per vedere se. Ma come, tu hai nominato un tecnico olfattivo? Sì. Non ci posso credere. Cioè, il mitologico avvocato di Sgarbi, Giampaolo Cicconi, che ha salvato il culo a Sgarbi in 1000 occasioni, ha nominato un tecnico olfattivo per capire. Per capire se è puzzone o no. Ma sicuramente puzza, sicuramente. Io credo. Tu credi di sì che puzza. Ciao Vittorio. Ciao. Saluti. Andiamo a Palermo da Francesco, poi ragazzi, secondo venerdì della Dandola, Francesco Palermo, vai Francesco. Francesco, sì, vai. Buonasera. Dimmi, sì, vai. Buonasera, volevo salutare Parenzo affettuosamente. Sì, caro. E poi dirgli, se domani invece di organizzare questo convegno della Lega, organizzasse lui un evento relativo alla Shoah. E contemporaneamente in un'altra zona di Roma c'è un convegno di questi famosi negazionisti. Cosa direbbe? Non ho capito, scusi. No, lui dice se ci fosse una manifestazione pro-ebraica, diciamo, no? A Roma, esatto, pro Israele, esatto. E nello stesso momento una manifestazione di negazionisti, una contromanifestazione, tu probabilmente diresti che questa manifestazione andrebbe negata, o sbaglio? Andrebbe proibita. Certo. Proibita, secondo me i negazionisti vanno sanzionati per legge, quindi certamente che sì, vanno sanzionati per legge, nel senso che vanno. Lui vuole dire che c'è un'incoerenza. In Germania c'è una legge che punisce i negazionisti, ad esempio, sono considerati. Fino a quando non c'è una legge, c'è una legge che condanna i negazionisti. Il negazionismo poco, è un reato. Purtroppo, per fortuna, il Parlamento approva. C'è una legge, ma perché se qualora non vi fosse una legge, purtroppo sarebbero liberi di dire le loro aberrazioni, non c'è dubbio. Sì, sono d'accordo, ma no, se allora... c'è una manifestazione organizzata dalla destra, perché una contromanifestazione di sinistra? Se libero, tutti possiamo scendere in piazza e rispettiamo la legge. Io ho già detto possiamo quello che penso su queste manifestazioni. Palermo, sì, Palermo, Francesco da Palermo. A risentirci, ciao, ciao. Ciao, a risentirci, ciao. Apri, c'è la dandola. Voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. Ciao, Cruzas. Alberto Dandolo, eccolo Cruzas, qui. Cruzas. Dove ti trovi, Alberto? Dove ti trovi, cara? Cara Frociona, dove ti trovi? Quanto, amore, quante volte l'hai preso posso... questa settimana? Quante volte amore, l'hai preso? Io l'ho preso pochissimo, perché mi sono fidanzato con uno che si chiama Andrea, uno di buona famiglia. Come un uomo? Che beh, non sì, me lo certo. dà, un uomo. Ah, e che vuol dire non te lo dà? Spiegami. No, lui è come un BlaBlaCar, cioè? Un viaggio di sola andata e in condivisione. Ma però che vuol dire? Scusa, spiegami, sola andata e condivisione. Cioè il sesso, fai proprio sesso. Il vero amore non passa per la sessualità. Questa settimana ho capito questo. Ma capito, tu sei passiva o attiva? Io con lui purtroppo sono attiva. Con purtroppo lui attiva. Poi purtroppo tu invece vorresti essere passiva in realtà, dandola. Vorresti essere... che per il mio compleanno ho affittato due escort uomini Beh, per certo. avere un'attività io, cioè un'attività dentro di me. E lui ha festeggiato come mi ha pagato questi due escort. Cioè il tuo fidanzato ti ha pagato due escort. Perché, perché non aveva erezioni, io ho messo anche una piccola miscela. Ma cos'è, un bel ambiente? Ma sai, ho sognato Parenzo ieri notte. No, hai sognato Parenzo. Era tipo Botticelliano su un'altalena e poi quest'altalena ho capito che senso ha e io lo spiego dopo. No, ho già capito tutta nuda, purtroppo. Con le pudende all'aria. Erano minimal, mi sono spaventato, me ne sono fuggito dal sogno. Cioè era minima la cosa, le dimensioni parenziali. Le pudende, terribile. Terribile. Parenzo, come sta? Dove ti trovi tu, Dandola? Dove ti trovi? Allora io mi trovo da due grandissime amiche. E chi sono? Facci questa sorpresa. Io non so veramente nulla stasera. Una di dove sei. Sta scappando. Che è Vanna Marchi, e l'altra è sua figlia Stefania. Ma sei nel bar? Ma perché sta scappando? Perché sta scappando Vanna? Sta scappando, perché scappa? Perché scappa Vanna? Allora, ascolti, qua ci sono più cinesi che tavolini. Allora, dove ci troviamo? Se non mi sbaglio, è via Napo Torriani, no? La stazione centrale a Milano, Napo Torriani. Sì. Davanti alla stazione centrale, mi dice Stefania. E davanti e dietro ci siamo persi. E poi c'è da fronte a noi uno dei locali dei mattatoi gay più importanti d'Italia. Cioè, non ho capito, davanti al bar dove lavora la signora Vanna Marchi. No, dove sono proprietari, dipendenti del bar, dipendenti. Stefania Nobile e Vanna Marchi, nel loro bar. Di fronte cosa c'è? Di fronte non ho capito. Di fronte c'è una rotonda e poi c'è il locale più importante gay di Milano, che è l'Illuminated. Come si chiama l'Illuminated? Dove? Ah, Parenzo, vuole venire all'Illuminated? Guarda, quella zona lì tra il bar... Esatto. Sì, il bar bene, per me è off limits, perché non voglio bere un caffè. Lei che fa tutti questi discorsi sull'idea della dimenticanza rispetto ai reati, il diritto all'oblio, certo, bravo rispetto Dandola. All'oblio. Ma perché parla dei politici e non parla delle due mie amiche Vanna e Stefania? No, come che avrebbero diritto la signora Dandola, lei alla dimenticanza. Perché non hai parlato? Perché non hai parlato del diritto all'oblio quando si è imbattuto in Vanna Marchi e Stefania? Un momento. Hai ragione, Parenzo. Abbiamo un momento. Mi scusi. Abbiamo concordato un minuto e 40 secondi nel quale posso spiegare la mia posizione su questa vicenda. Mi dica. Allora, il diritto all'oblio vale per alcune persone. Non vale per Vanna Marchi e Stefania Nobile. Per reati. Per reati terribili che hanno un impatto sociale, come ebbero quei reati commessi. No, ma lo dice il garante stesso. Lo dice il garante stesso. Vabbè, passami un attimo Stefania, così la saluto. Aspetti che le passo Stefania, Sì, Dandola, mi passi Stefania. Poi mi dice Dandola, poi mi dice che succede in quel locale là, l'Illuminated. Ciao Stefania, sono io, come stai? Ciao, bene, tu? Bene, non c'è male. Ma è vera questa cosa che c'è di fronte al vostro bar, il locale gay più trendy di Milano? Ma di come fronte si... proprio no, è a 100 metri. Sì, a 100 metri, l'Illuminated. Sì. Tu ci sei stata qualche volta? No, possono entrare solo gli uomini, non possono entrare le donne. Ah, per cui è un locale gay ma maschile. È un locale... è un locale solo maschile dove mi hanno detto, noi l'abbiamo ribattezzato il Rotolone perché mi hanno detto che l'unico arredamento che c'è dentro sono dei rotoli di carta. Beh, per pulirsi, chissà e basta. Cosa servono questi rotoli di carta. Ma chissà. Chissà, no, forse chissà. Parenzo lo sa, non lo so. No, Parenzo so dice che non frequenta questi locali. No, io dice sono... che non farebbe bene a frequentarli. Perché sono... dici farebbe... io se potessi saprei, non posso entrare perché sono una donna, quindi non posso. Ma perché... Però per curiosità ci andrei. Io pure per curiosità ci andrei, devo dire la verità. Solo che trovatevi solo lì. Che ci sarebbe qualche rischio, magari mi verrebbe pure qualche voglia, che ne so, non credo, beh, però chi può dirlo? Chi può dirlo? Nella vita non si può dire. Non si può dire. Senti, ma io volevo chiederti una cosa in presenza della Dandola. Parenzo ha parlato nei giorni scorsi di diritto all'oblio. Ma in realtà sto diritto all'oblio non l'ha applicato a tua madre, capito? No, cioè, ma forse ha ragione lui, perché sai, il diritto all'oblio lo può chiedere chi vuole essere dimenticato. Noi non vogliamo mica essere dimenticati. Capito? Noi esatto. Amiamo tanto così come siamo, questo non vogliamo essere dimenticati. Perché dovreste essere dimenticate per quel che avete fatto? No, non vuole essere. Noi abbiamo fatto altro, capito? Non vuole essere dimenticata. Non vuole essere dimenticata. Sarete ricordate per aver venduto il sale sotto minaccia, per averlo fatto passare come una. È fissato col sale. Di diabete, di colesterolo, non so che cazzo è fissato col sale. No. Alti, non lo so cosa c'hai. Comunque, Eravate voi a vendere il sale, ma è scappata tua mamma? È scappata appena sente Parenzo, scappa. Appena passa Parenzo, scappa. Parenzo, fai una riconciliazione. Passami la Dandola un attimo. Sono contento, guarda, di fare questo. Sono contento di fare questo effetto. Una cosa è certa, che se lui difende e sta con tutti i rom d'Italia, sono felice di non essere difesa da lui. Ma meglio i rom di quello che avete fatto voi, guarda. Ma sei pazzo, dai. Almeno quelli che vanno a rapinare dicono: noi siamo andati a rapinare, non ruba per mangiare. Quello dicevano. Stai almeno. Zitto un attimo. Passami la Dandola un attimo. Stefano. Ah, la Dandola, sì. Okay. Passami la Dandola, sì. Ciao, cara. Ma che ambiente. Hai fatto subito. Vorrei smorzare questa polemica. Ho una notizia. Dimmi una notizia. La Marchi si sposa. No. Veramente. Ma veramente stai dicendo? E contro chi? No, allora togliamo dall'onda Parenzo un attimo. Parenzo, esci dalla cosa, sennò vai fuori onda un attimo. Vai col telefono vicino a Vanna Marchi. Parenzo fuori onda, perché sennò finisce a bordello ogni volta. Ma sta fuggendo. No, avvicinati tu. No, digli che Parenzo è fuori onda. Digli che Parenzo è fuori onda. Parenzo è fuori onda, ci sono solo io. Di a Vanna Marchi che ci sono solo io. Che la tratta amorevolmente. Parenzo è fuori onda, siamo in diretta. Vanna, con il Parenzo è fuori onda. Parenzo è fuori onda, ci sono solo io. Avvicinati. No. Avvicinati, fai il cronista. È il venerdì della Dandola, avvicinati. Vaffanculo, mi dice Vanna. Vaffanculo. Ma fallo sentire il vaffanculo. Avvicinati, cazzo. Rischia, ma ti farà. Vanna. D'accordo, dai. No, niente, non mi picchia, aiuto. Ma avvicina il telefono a Stefania e chiedilo a Stefania. Fai tu la domanda a Stefania. Vanna è incazzata. Vabbè, fai la domanda a Stefania, dai. Allora, Stefania, mamma si sposa il 21 settembre? Almeno che lei abbia un grande amore, eh? Io sono felice, certo. Si sposa. Dove si sposa? A Milano, a Parigi, non lo sappiamo a Copenaghen. Ancora, ma il matrimonio li sposerà il nostro avvocato. Il vostro avvocato risponderà, ma Liborio Catagliotti, che è il numero uno delle Liborio Catagliotti, va bene, ma scusami Stefania, ma questo matrimonio con chi è? Con o contro? Compagno da sempre, compagno che è stato purtroppo coinvolto suo malgrado nelle nostre storie, semplicemente perché era il compagno di Vanna Marchi. Ma pure lui è stato condannato, no? Alla fine, no, poveretto, lui non c'entrava niente. Ah, non c'entrava niente, fine, coinvolto, diciamo, dal punto di vista. Alla così. Fine, appunto, soltanto perché era compagno di Vanna Marchi. Vabbè, comunque si sposa con, come dire, con tutte le capito, con una grande cerimonia. Sì, pagate il conto, no, sì. No. Il conto lo pagate, vero, della festa? Loro, il conto della festa? Lo pagate il conto della festa, vero? Lo paghi il conto. Di solito noi paghiamo. Chiedo. Noi di solito paghiamo. No, sai com'è? Io non vado a dice, avanzare. Sì, pronto, va alla Marchi a fare il conto. Tum, chiude, eh? Non sono raccomandato. Da che? D'accordo. Basta, Parenzo. Facciamo un matrimonio. Il costo del matrimonio è 40.000 euro. Pagheranno gli invitati, d'accordo? Sei un coglione. Sei un travestito, dai, un travestito represso. Io vi dico culo, ma non che al mio matrimonio pagheranno gli invitati soltanto 40.000 euro. Basta. Bomboniere di sale. Bomboniere di sale, d'accordo? Basta, basta. Parenzo, basta, basta. Allora, ma tu Giuseppe, dimmi la verità. Tu dimmi. Prendi molti soldi per lavorare con questa. Purtroppo, guarda, lo devo sopportare ogni giorno. Ogni giorno. Se tu non ne prendi tanti, sei un coglione anche tu. Ma forse sono un po' un coglione, lo sono, o però. Non guadagni tanto. Per tanto questo no. Questo sarà il primo matrimonio pagato dagli ospiti. Zitto un attimo. Passami un attimo Dandola. Passami la Dandola. Ciao Stefania. Ciao, un bacio. Ciao, ciao, un bacio. Dandola. Mi offro io per fare no, la notizia ogni venerdì una notizia. L'altra settimana scorsa la notizia era Efe Ball ecco, con la sciatica. Il matrimonio di Vanna, che non il matrimonio di Vanna parlare. Marchi. Matrimonio di Vanna Marchi il 21 settembre, il 21 settembre prossimo. Vabbè, Dandola, quanti Parenzo quanta fa la damigella? No, Parenzo, secondo te in quel locale gay cosa dovrebbe fare? Allora, Parenzo, allora nel locale Illuminate qua di fronte dovrebbe venire sulla Zering. Come si chiama, scusa? Sai che sono le sling? No, come si chiamano? Nel piano di sopra sì. Si entra solo nudi. Le sling sono delle sedie di pelle sì. Con sì, delle sì, catene che nascono dall'alto sì. E reggono la sedia di pelle sì. Si mette a corsa all'aria e fa una gang bang. Mamma mia, che ambiente. Che ambientino. Che ambientino, ragazzi. Che ambientino. Che bene, ambientino. Dandola, grazie. Grazie per questo collegamento. Ciao, abbraccia le un signore Marchi. Bellissimo. No, no. Abbracciare nessuno. Ciao. Battete lo scontrino dei caffè. Sì, lo occhio, prendo, lo prendo. Occhio al portafoglio, Dandola, occhio Luciano, al portafoglio lì. Occhio al portafoglio, amico. D'accordo! Ah, aiuto! Lo ciao, prendo. Ciao, ciao. D'accordo! Ciao. Sarà un matrimonio pagato interamente! La Dandola! Voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. Questa era la Clerici, eh? Che chi è la signora? La Clerici. Chi era la signora, scusa? La signora Clerici. Matrimonio! Matrimonio veramente pagato dagli ospiti 45.000 euro! D'accordo? Esatto. Come fanno a pagare 45.000 euro? Pagheranno gli ospiti per la prima volta nella storia! Matrimonio pagato interamente! D'accordo? D'accordo? Sebastiano Milano. Ma dai. Sebastiano ma che Milano. Che gente è? Ma anche quella che non manca roba è. Dai. Sebastiano, vai. Pronto ragazzi, mi sentite? Dimmi. Sì, ciao. Allora ragazzi, da stamattina che ci penso perché ho letto la notizia della possibilità di avere un corpo diverso. Io ho pensato a me con la mia testa, ma col corpo di Stefania Sandrelli nel periodo che ha fatto la chiave. Una roba, cioè la tua testa è il corpo della Sandrelli. E che ce fai? Non ho capito questo. Allora ragazzi, intanto erotismo sfrenato. Ma erotismo che vuol dire? Cioè non è che tu muori, cioè, non ho capito, la tua testa è il corpo della Sandrelli, cioè creeresti una persona apposta. Ma ti rendi conto, la testa di un uomo in un corpo come quello della Sandrelli? Ma follia pura. Bellissimo. Infatti voglio fare un annuncio urbe e torbi. Sebastiano da Milano cerca una donatrice che possa donare quel corpo, se c'è qualcuna che si riconosce in quel corpo, perché possa continuare un domani a cantare meglio che a Sanremo. Va bene, Francesco Foggia, veloce, vai Francesco. Sì, sono qua, buonasera. Dimmi. Allora Giuseppe, tu mi stai dicendo, c'è cioè, l'amico delle teste là di Trapiano, sì, mi sta dicendo che praticamente l'ISIS ha già venduto le teste e i corpi di quelli che ha tagliato? Può darsi. No, ma i corpi, le teste non possono essere già morte, devono essere ancora viventi. No, quelli sanno come conservarle già, secondo me. Vabbè, stiamo andando sulla fantascienza. Francesco, devo chiudere! A lunedì 18.30, ciao a tutti! Dice, lega... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendato, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.